inevitabile inquietudine in noi. E lei mi guardava come a cercare un argomento, e io come un muro avevo dentro. A volte ebbrezza, a volte sono tormenta, come urla a farmi uscire dal torpore. La meta niente, ho gentili momenti, ma son pur sempre parole. Era un silenzio che pulsava d'amore, ma le domande affioravano veloci, e gli errori, le paure, il primo dolore, discorsi futili, le pause, ma mi sapeva capire. A volte brezza, a volte sono tormenta, come urla a farmi uscire dal torpore. La meta niente, ho gentili momenti, ma son pur sempre parole. Troppo spesso non vi trovo, e allora libero i pensieri. Mi muovo nel silenzio, poi corro nel vento, fuori dal tempo e folle come ieri.